Un saluto da Max Macchia per quanto riguarda 451 frammenti sonori, saluto tra l'altro Salvatore che ci ha appena appunto lasciato, mi ha appena lasciato la conduzione, quindi lo ringrazio, sempre squisito. Questa sera 451 frammenti sonori, dopo una forte accelerata, un potentissimo rallentamento che appunto comunque lo vogliamo unire a una potenza, la potenza di rallentare e rallentando in maniera molto molto appunto potente, quindi creando possibilità, si creano poi di fatto dei futuri se non rumori, comunque sicuramente memorie anche legate all'umore. E 451 frammenti sonori, 451 future memorie è un po' il perno della situazione di questa serata, di questa ora appunto in mia compagnia, in compagnia di Max Macchia. E per iniziare, come non inserire Basinski, che tra l'altro campeggia anche con i suoi Disintegration Loop, ma non metteremo Disintegration Loop se non per creare delle sorte di ponti tra i tre artisti che appunto ascolteremo. Basinski, che da sempre lavora sul suono della memoria, il suo è quasi un processo retroattivo, e quello che è riuscito a fare dagli anni zero con appunto il disco epocale, l'opera assolutamente epocale che è stata Disintegration Loop, uscita dopo il crollo delle Torri Gemelle, tra l'altro appunto Basinski si riferisce in particolar modo non soltanto all'immagine e all'immaginario dell'11 settembre, ma anche a una sorta di musiche che di anche linguaggi, concetti, se vogliamo anche in maniera un po' più larga, di vita che tende quasi a disintegrarsi. È una disintegrazione che dà però possibilità, e in questo senso appunto la potenza evocata che accennavo prima, a sonorità che poi per gli anni zero appunto con Disintegration Loop furono decisamente importanti per quanto riguarda proprio un lavorare anche sulla materia concreta. Sono nastri raccolti dagli anni Ottanta in poi, che Basinski va a riascoltare dopo molti anni e li ritrova essenzialmente rovinati, se non addirittura inascoltabili per alcuni punti, ma poi capisce che questa inascoltabilità in realtà può essere trattata, quindi vengono addirittura ancora di più portati a un livello di disintegrazione e tale che il suono diventa veramente una cosa fantasmatica, qualcosa che ci riporta in un altrove, che può essere appunto tanto legato alla memoria, e in questo caso appunto quella delle due torri che vengono anche fatte appunto vedere esplicitamente e meno esplicitamente, anche qua con una gradazione che disintegra la stessa immagine appunto dell'abbattimento delle due torri. E un lavoro che per quanto riguarda sia per buona parte di quel ambito che poi si farà a Basinski direttamente in termini di suono, che va a ricercare quel quell'aspetto concreto, quindi frusci, suoni che diventano opalescenti, vaghezze, echi, tutto quello che ha qualcosa di ipnagogico. Poi Fisher insieme a Reynolds, Simon Reynolds, faranno proprio, spiegheranno, insomma, e tenteranno anche di lanciare quello che è stato parzialmente poi un suono ipnagogico. Parzialmente vengono presi appunto Basinski, anche se poi risulta quasi impossibile ripetere appunto un'operazione di questo tipo, che è un'operazione, se vogliamo veramente in termini molto larghi, artistica, e che porta anche una filosofia piuttosto estrema, anche se vogliamo, rispetto appunto a questo disfarsi che poi diventa materia non soltanto lirica, ma anche proprio materia nuova, materia da esplorare in mille rivoli. In questo senso, appunto, una sorta di futura memoria dentro le musiche di Basinski. Accelerazione, quindi, quella cinese delle 3 ore, insomma, fatte appunto in compagnia dei cinesi di Made in China, e questa sera appunto per iniziare un Basinski con Shadow in Time, pezzo tra l'altro che andiamo a sentire per alcuni minuti, dedicato a David Bowie. Quindi anche qua il fantasmatico, il qualcosa che si muove a livello spettrale dentro le musiche e dentro un immaginario che per tanti versi, insomma, è dentro quel magnifico mondo art, con quel senso sempre di inappagamento, di ricerca. Anche quando insomma le cose non hanno funzionato esattamente bene, se pensiamo insomma alla metà degli anni Ottanta, dove i dischi di Bowie insomma, belli, eravamo lontani insomma dal bello, per non parlare di altro, insomma, dischi non proprio a fuoco, ma poi dopo insomma con un recupero deciso che lo porterà insomma a Black Star, a suggellare, quindi proprio quasi una sorta di disegno dell'intera vita artistica, dove appunto arte e vita, vita e arte tendono a fondersi. E probabilmente questo anche che muove questa spettralità appunto dentro questa meraviglia uscita un paio d'anni fa, A Shadow in Time, appunto, di William Basinski, in questo caso For David Robert Jones, che altro non sarebbe che il grande David Bowie. William Basinski da Shadow in Time, pezzo dedicato appunto for David Robert Jones, proprio Bowie, e queste, questo fruscio quasi vocale che si sente, una sorta di interferenza, sembra quasi veramente qualcosa di spettrale che è dentro una sorta di elegia, tra l'altro veramente sublime da parte di Basinski, ma va da sé insomma che l'americano ci abbia da 20 anni a questa parte, veramente ammaliato potremmo dire, con musiche che tendono a farsi veramente esperienziali, ecco, termine che si usa tanto in questo periodo per tutt'altra faccenda, insomma, ma qua sembra quasi che appunto dalla mente si passi al corpo e viceversa, quasi non distinguendo, anche qua insomma un'ulteriore, se vogliamo, rottura rispetto a prima, ad esempio quando parlavo di arte, vita arte in Bowie, che probabilmente avrà mosso tra le varie cose anche Basinski appunto per questa dedica decisamente accorata, superamento anche del appunto dell'umano, anche proprio della vita, quindi della vita umana. E lo so che qua insomma sembra veramente di andare in un altrove che peraltro potrebbe essere anche scongiurato, ma non vi preoccupate, insomma, d'altronde una delle etichette più fantasmagoriche, a questo punto ci vuole veramente il termine, è proprio la Ghost Box che ascolteremo proprio sul finire di 451 con uno dei suoi ultimi gioielli, da Ghost Box da 20 anni, insomma, insegue appunto fantasmi, come d'altronde molte delle musiche che sono riuscite a essere fuori dal tempo, ecco, c'è una costante sia in Basinski con A Shadow in Time che in Everywhere at the End of Time di Carcater, che stiamo per andare a sentire, che è quello proprio di uscire dal tempo. Se ora come ora sentiamo anche insomma, da parte di qualcuno in maniera più o meno pelosa, e qualche un altro invece insomma, effettivamente cercando un'alterità nel disegnare e nel tentare anzi di disegnare, di spostare la visuale verso il futuro, quindi questa urgenza appunto di futuro, quella che interessa a noi ovviamente è quella appunto dell'altrove. Beh, forse sia con Basinski che con Carcater si va invece su un altro, quasi una sorta di appunto perdita fantasmatico, quindi questo perdere in termini perlomeno di vita presente, ma anche perdita poi temporale, appunto lo spettro che s'aggira anche fuori dal tempo, e qua insomma potremmo citare anche altri spettri insomma che da sempre s'aggirano, insomma poi in periodi particolari si aggirano ancora di più, ma questa è un'altra storia, se la capite bene, se no altrimenti chiedetemi magari spiegazioni in altra sede, scherzo. E parlavo ovviamente del vecchio barbone, se non l'avete neanche capita così, che vi devo dire. Carcater con Everywhere at the End of Time, tra l'altro nel stage 6 va proprio con la sua visione, così dando l'ulteriore insomma ulteriore indicazione su quello che poc'anzi mi riferivo, anticapitalista di Carcater, che non è ovviamente l'anticapitalismo potremmo dire piuttosto conosciuto, insomma, del Novecento, quello insomma con tutti i cliché, magari anche appunto piuttosto finto, piuttosto di facciata o di partito, così diciamo tutta. E l'anticapitalismo di Carcater sta per un concetto come quello ovunque alla fine dei tempi, ad esempio quella spettralità che, di cui accennavo prima, con un'etichetta che si chiama "La storia favorisce sempre i vincitori", non può che essere una forma antagonistica quella di Carcater, che dal terrorismo sonoro di VVM è passato ai lavori a nome proprio come Leonard Kirby, e poi per approdare appunto con Carcater questi lavori sulla memoria e sulla spettralità. Ha iniziato con Shine, un disco incredibile, capolavoro, e per poi passare soprattutto su quello che è il danneggiamento della memoria, i danni quasi anche qua materiali, fisici, che vanno quasi a essere indagati a livello sonoro da Carcater. Come lo fa? Questo è sempre rimandare a frusci, a ticchetti, a qualcosa che riporta immediatamente l'immagine, e quindi ce lo fa vedere direttamente, senza quasi insomma mediazioni, o comunque senza che ci sia uno scarto temporale tale per cui insomma ci si possa e ci si debba soprattutto riflettere sul suono. Arriva proprio come un suono già fantasmatico di per sé, e già spostato verso una perdita, che appunto sia quella fantasmatica in generale che quella appunto temporale. Ci andiamo appunto a prendere dal suo ultimo Everywhere at the End of Time, come dicevo prima, appunto ovunque alla fine dei tempi, e questo ovunque alla fine dei tempi, beh, veramente sono parole tutte che pesano una quantità impressionante di senso, potremmo dire, è quasi un surplus anche in questo senso. Sembra quasi uscire Carcater, rompere anche come faceva appunto Basinski con temporalità, e anche egli con queste spettralità. Ci andiamo ad ascoltare. scusate tutte queste fantasmagorie, se si dice così, non lo so, perché mi sono perso anch'io dentro questo divenire flusso, e tra l'altro con un fantasma veramente non voluto da sottoscritto dentro la macchina, anche un po' preoccupante, visto che si è trasformato in white noise per alcuni secondi, anzi per un paio di minuti, quindi avete sentito un paio di minuti di un umore bianco che non erano voluti dal sottoscritto, ma non so neanche da dove diavolo siano usciti. Vabbè, e le macchine ogni tanto funzionano in maniera strana, non è un caso insomma che da queste parti di glicerie ne abbiamo parlato, ne abbiamo sentite anche tanto, quindi errori delle macchine, che comunque dentro appunto la materia di Carcata ci stavano a meraviglia. Poi in più contiamoci appunto un flusso interrotto da momenti veramente di stacco anche fortissimo, avete sentito questa puntina che si stacca in maniera violenta, veramente è una cesura molto potente anche a livello sonoro. E vabbè, con la mia insomma disturbo tra virgolette, visto che utilizzavo Basinski e Disintegration Loop, che forse fantasmavizzava, boh, non lo so, anche questo lo butto lì, e come termine abbiate insomma siate clementi, ecco, e abbiate clemenza, ecco, per Max Macchia, che vi saluta, vi rimanda al prossimo 451 frammenti sonori, chissà se ho più o meno fantasmatico o accelerato, chissà cos'altro. Vi lascio con Justin Hopper, Sharon Krause, Belbury Polly, Canterbury Rings, un gioco di parole anche qua per ricordare quasi Canterbury, anche certe sonorità che tra l'altro sembrano quasi tornare su quello, e anche qua fantasmi, ghost box eccetera eccetera eccetera, ma un eccetera che appunto è un surplus, è un andare oltre, un talmente riempire che appunto si versa quella cosa con capacità insomma evocative, questa cosa indefinibile appunto a livello sonoro, tra rimandi vari e musiche insomma imprendibili, in qualcosa che così abbiamo voluto chiamare questa sera Future Memorie. Ciao da Max Macchia. Such an undertaking. At Sanctumbury, each subsequent invader of the Downs had discovered new unknowns. 2,000 years ago, the Druids found barrows already older than memory and invented stories to explain them. Now we do the same. The Romans built temples there, at least two in their time, and worshipped pagan gods, while fearing the ones that lingered in the old fortress, visible in the ground. The Saxons found the ruined temples, practiced their own religion. When Christ came, his house was built at the foot of the Downs, but above it, on Sanctumbury, that was for Woden. 800 years ago, an incident. A monk killed mysteriously at Sanctumbury on the eve of the Nativity of St. John the Baptist, a night marked by bonfire and drunkenness, the summer solstice. The traditional meeting place of Sussex witches is Sanctumbury Ring, wrote Dorian Valiente. A coven, an unbroken line of the old religion at Sanctumbury. Figment of Valiente's imagination? Perhaps. But in the 20th century, a London businessman found in the center of the ring, gun by his side, bullet through his heart. Two girls from Worthing plot their own deaths by poison on a carriage journey over the down. The sentiment, a place of ritual, a place of life and death, was there. The Morris men danced on forever. Their clashing sticks and jingling bells receded into the mist as I circled the trees until I found something familiar. There, among snagged wool and snagged mist, I put my hand on a young tree to spin myself around and stopped with a sharp breath. There she was, Winnie. Ubiquitous to 80s England. Her hair showed the first flashes of its graying corona. Her elbows were pinned in impatience as though holding a saucer and teacup. She didn't move or acknowledge me. I never saw her face. And then she was gone. I can't convince you it happened. I couldn't draw a diagram or map the winds on that particular day. That particular moment. But it did happen. It did.